vorrei volare ma non posso, e resto fermo qua su questo piano che si chiama terra. Ma la terra si ferma appena io mi rendo conto di avere perso la metà del tempo, e quello che mi resta è di trovare un senso. Ma tu sembri ridere di me, sembri ridere di me, e tu lo chiami Dio. Io non do mai nomi a cose più grandi di me, perché io non sono come te, ma conosco l'amore. Io che ho visto come te, dritto in faccia il dolore. Vorrei volare ma non posso, e spingermi più in là, adesso che si fa silenzio attorno, ma il silenzio mi parla. Devo combattere con le mie lacrime, mica con una poesia. E non c'è ordine nei letti d'ospedale, in una fotografia rivedo dritta sulle spalle la mia figura. Tu lo chiami Dio, io non do mai nomi a cose più grandi di me, perché io non sono come te. Tu lo chiami Dio, io non do mai nomi a cose più grandi di me, perché io non sono come te, ma conosco l'amore. Io che ho visto come te, dritto in faccia il dolore. E tu lo chiami Dio, io non do mai nomi a cose più grandi di me. Io sono come te.